Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Lunedì 2 agosto, buongiorno a tutte e a tutti, in particolare alle persone ristrette delle case circondariali dell'Emilia-Romagna e della Dozza, e bentornati su Liberi Dentro Eduradio TV, il programma che va in onda su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida. Io sono Antonella Cortese, mi conoscete, qui con me in co-conduzione c'è un gradito ritorno, Ignazio De Francesco, volontario AVOC, che sarà con me Caterina per tutto il mese di agosto. Buongiorno Ignazio. Buongiorno a te Antonella, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano dal carcere, dalla città. Innanzitutto vogliamo ringraziare chi ci ha sostenuto per il grande successo della campagna di crowdfunding su Ginger, perché proprio grazie a voi quest'estate siamo tutti insieme e possiamo continuare la nostra trasmissione. E un grazie speciale va anche a tutta la redazione allargata di Eduradio TV, alle associazioni che camminano con noi al nostro fianco. Ne nomino qualcuno perché sono veramente tante: Teatro Il Pratello, Teatro dell'Argine, Cantieri Meticci, House Bologna, CPA Ferrara, CPA Bologna, insomma sono veramente tante. Noi vi ringraziamo perché insieme a voi stiamo facendo un bellissimo lavoro. E per il prossimo futuro cerchiamo di impegnarci ancora di più per proporvi cose nuove e cose che possano essere di vostro gradimento. E intanto lascerei la parola a Ignazio perché oggi ci parla del carcere come quartiere della città e un articolo di Margherita Lazzati. Che cosa ti colpisce di più di questa del carcere come quartiere della città e di questa mostra? Ma direi che appunto questa mostra che si è svolta, che è stata realizzata per il carcere di San Vittore, la cosa che mi ha colpito di più è questo incrocio tra foto e storie. Quindi come noi vediamo il carcere sono luoghi, sono una certa situazione, ma poi sono le persone che le vivono, e in particolare le persone detenute, non solo loro, ci sono educatori, ci sono agenti, ci sono personale sanitario, ma il fatto che si siano messi insieme fotografie e parole delle persone. Questo mi ha molto colpito, credo che sia un'idea molto bella. Senti Ignazio, quali sono i punti di osservazione del carcere che hanno veramente colpito di più la fotografa, ma anche te stesso? Insomma, quello che ti ha colpito un po' ce l'hai detto, ma la fotografa? Ma questa mostra, la fotografa Margherita Lazzati ha detto questo, che lei ha incontrato un luogo che è dentro la città, chi sta a Milano, San Vittore, sa benissimo dov'è, i carceri erano al centro della città, adesso noi Bologna siamo in periferia, ma è un quartiere, invece San Vittore proprio al centro, ma è un quartiere nascosto perché nessuno può entrare e nessuno può uscire se non avendone l'autorizzazione per farlo. Quindi è una specie di cuore della città, una vita nel cuore della città che non è conosciuta. E poi anche questo fatto che la fotografa, che è abituata a riprendere volti, persone, così, ha dovuto ovviamente fotografare i luoghi, ma non le persone. È un po' come andare a un mercato, fotografare le bancarelle, ma senza nessuno intorno. Pensate che impressione. Eppure la vita del carcere brulica di persone e si basa tutta sulla vita delle persone. Sì, è vero. C'è da dire che per fortuna l'oggetto e i luoghi rimandano le persone che li abitano. Ma secondo te qual è stata l'idea di fondo del progetto, di questa mostra fotografica? Ma io direi che questa cosa ce lo facciamo dire meglio da Carla Chiappini, che nella seconda parte del nostro programma viene intervistata da Franco Bonisoli. Mi piace ricordare appunto delle cose che lei dice, appunto proprio il fatto che il carcere vive per le persone che lo abitano. E cioè tutte queste strutture, queste inferriate, queste celle, questi muri di cemento, non hanno nessun significato. Il significato al carcere lo danno delle persone che si trovano a vivere una situazione di oggettiva sofferenza che non auguriamo a nessuno, che speriamo che tutti siano presto liberi di ritornare, ma è la vita palpitante delle persone, la realtà più profonda del carcere. È proprio così. Io ti chiederei a questo punto di cambiare un po' registro e di introdurci il pezzo che vogliamo ascoltare. Ma penso questa settimana un po' li scelgo io, però Caterina per il primo giorno, ecco, di conduzione insieme a te mi ha dato un'indicazione che la prendo volentieri. Allora, De André, Don Raffaè, e lo vorrei dedicare in particolare a due amici, ecco, del carcere di Bologna che io frequento, Maurizio e Denis, con un saluto particolare per loro se ci stanno ascoltando in questo momento. Allora lanciamo Don Raffaè e un saluto a Maurizio e Dennis. Ascoltiamolo. Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcere Ovinè. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E a centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi fornuti alla che. Tutte loro con sta fedenzia che sputa minaccia sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papà, mi scottone, mi leggo giornale. Consiglio con Don Raffaè, mi spiega che pensa e bevimo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usano a fare. Qua ricetta che ci ridete, compagni di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con grande dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. Quell'uomo certissimo e immenso, io chiedo consenso a Don Raffaè. Un galantuomo che tiene 6 figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un trassessore che Dio lo perdoni, un 30 ai rullotti ci alleva i visori. Poi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volite spremuto, volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. Qua ricetta che ci cirinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. Ricetta di Ciccirinella, compagni di cella precisa mamma. Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là, chi c'è là. Io non tengo compendio che chi lo stipendio è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attendo le scarpe uccelle, gradito campario, voluto caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. Qua ricetta che Ciccirinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagni di cella precisa mamma. Rieccovi, bentornati, siete sempre su Liberi Dentro e Radio TV e prima del brano musicale abbiamo ascoltato Ignazio De Francesco sulla mostra fotografica. Ora però io vorrei parlarvi di un tema scottante di questo periodo, l'ambiente e quindi un po' l'emergenza climatica. E parlare di ambiente diventa doveroso dopo le inondazioni che hanno fatto 170 vittime solo in Germania, 40.000 persone che hanno subito tantissimi danni e in Belgio continuano a esserci alluvioni e inondazioni. E non possiamo pensare più a una casualità e sottrarci dal prenderci anche individualmente delle responsabilità personali. Una catastrofe è quella del clima a cui non si può porre rimedio con misure blande. Questo ormai è chiarissimo, lo hanno detto anche gli scienziati a chiare lettere e ne stanno scrivendo da un po' di anni, in effetti. Ma cosa c'entra il football for Friendship, per l'amicizia con questa campagna ambientalista? Ignazio, c'entra perché ne avevamo in realtà già parlato in passato e è un progetto molto bello questo. Da quando è stato lanciato nel 2013, Football for Friendship ha riunito migliaia di bambini di tutto il mondo promuovendo i valori universali e in questa edizione soprattutto il programma internazionale per bambini ha cercato di sensibilizzarli sulle questioni ambientali. Infatti l'obiettivo del progetto organizzato proprio da Gazprom è di unire le generazioni più giovani proprio per promuovere i valori umani attraverso i temi come l'uguaglianza di genere nello specifico, nello sport e la cura dell'ambiente. Tanto per ritornare all'ambiente, la nona stagione del programma è iniziata con una sfida online chiamata Piccoli passi per salvare il pianeta. Ragazzi di oltre 200 paesi hanno presentato in video il loro contributo alla protezione dell'ambiente. Adesso vi voglio leggere un contributo di una giovane giornalista del Bhutan, Kinley Deki Yazgong, sul ruolo dei bambini nella salvaguardia del pianeta. Dice: la gente pensa che i bambini, essendo così piccoli, non possano fare nulla, ma io ho voluto dimostrare che si sbagliano. Anche se non è un grande passo, penso che i piccoli passi in questo mondo siano importanti perché questi piccoli passi producono grandi cambiamenti e ho voluto mostrare agli altri che cosa faccio io per l'ambiente e al tempo stesso imparare dagli altri. Ignazio, se questa non è saggezza, dimmi tu. Sì, mi piacerebbe ricevere qualche lettera da persone che stanno in carcere che ci dicano un po' come vedano la problematica ambientale che ha degli aspetti molto, delle criticità forti anche in carcere. Ma intanto, per dare qualche altro spunto a chi ci vorrà scrivere su questo tema, dici qualche cosa su quali sono gli argomenti ambientali trattati. Gli argomenti trattati sono quelli che ormai coinvolgono tutti noi: l'inquinamento da plastica, lo spreco d'acqua, l'utilizzo dei trasporti pubblici, sono alcune delle tante questioni ambientali che sono state sollevate dai bambini. Alcuni con l'aiuto dei genitori sono riusciti a rendere la loro casa più rispettosa dell'ambiente, per esempio, come Miriam Shehan, che ci descrive le azioni della famiglia. Adesso vi leggo quello che ha scritto nel suo post. Facciamo il compost fuori, cerchiamo di usare contenitori riutilizzabili anziché sacchetti di plastica, abbiamo il riscaldamento geotermico, otteniamo il calore dal terreno per cui non abbiamo bisogno di petrolio o altro per scaldare la casa. Ricicliamo i rifiuti e abbiamo la fortuna di avere un giardino molto grande, per cui coltiviamo noi l'aglio e abbiamo degli alberi di mele. È molto importante perché siamo noi la prossima generazione e possiamo contribuire a cambiare le cose. Inoltre, ogni anno i partecipanti danno alle loro squadre il nome di animali, soprattutto quelli a rischio di estinzione. Quest'anno abbiamo visto tra gli altri il rinoceronte bianco, l'alligatore cinese e lo squalo bruno. E a trionfare però è stato l'argali, una pecora selvatica asiatica, anche se poi in realtà hanno vinto un po' tutti per aver fatto opera di sensibilizzazione e per aver partecipato. Adesso la musica, cosa ci presenti e perché? E vi presento un brano che mi piace tantissimo, è cantato da Anthony and the Johnson, che si intitola You Are My Sister, perché racconta un po' della sorellanza, perché noi possiamo vincere tutte le battaglie se rimaniamo insieme, se rimaniamo uniti. Dopo aver ascoltato questo brano bellissimo, riprendiamo quanto detto da Ignazio sulla mostra fotografica a San Vittore con l'intervista di Franco Bolisoli a Carla Chiappini. Ascoltiamola. Each night I'd ask for you to watch me as I sleep. I was so afraid of the night. You seemed to move through the places that I feared. You lived inside my world so softly, protected only by the kindness of your nature. You are my sister, and I love you. May all of your dreams come true. You are my all of your dreams. so differently then, so similar over the years. The way we loved, the way we experienced pain. So many memories, there's nothing left to gain from remembering. Faces and worlds no one else will ever know. Of my sister, and I love you. May all of your dreams come true. You are my sister. Siamo alla Società Umanitaria di Milano, dove è in corso una mostra fotografica con fotografie di Margherita Lazzati dal titolo San Vittore, quartiere della città. Ci troviamo con Carla Chiappini, la presidente dell'associazione Verso Itaca, e le chiediamo subito, Carla, qual è il senso di questa bella iniziativa? Il senso dell'iniziativa è, diciamo, che anche in linea con quello che fa l'associazione. L'associazione organizza, promuove eventi culturali di riflessione, di sensibilizzazione sul carcere, sulla pena, ma direi proprio in generale sull'esecuzione della pena. E questo è uno dei progetti che abbiamo pensato per restituire alla città di Milano, in questo caso, ma la mostra vorremmo farla girare, le immagini del carcere di San Vittore, che è nel cuore della città, e anche accompagnate dalle parole delle persone che abbiamo intervistato all'interno del carcere. Quindi noi abbiamo fatto delle interviste biografiche a 54 persone, che sono persone detenute, agenti di polizia penitenziaria, il direttore, il medico, il sacerdote, il cappellano, l'insegnante e l'avvocato. Abbiamo cercato di capire da dove arrivavano queste persone che si incontrano poi a San Vittore, cioè qual è la loro storia, che cosa volevano, che cosa desideravano per la loro vita e come mai si sono ritrovate appunto a lavorare o purtroppo a essere detenute in un carcere. Quindi il senso era ritrovare, ricostruire la vita di questo luogo, che è un quartiere della città, ma prima ancora è un quartiere. Quindi il progetto viene letto molto anche nella direzione di sensibilizziamo la città alla presenza del carcere. Però per me il senso si può fermare anche prima. Cioè cominciamo a capire chi abita questo quartiere, chi sono queste persone, cosa pensano, che cosa volevano, da bambini cosa pensavano di fare. E allora è stato bello capire che magari il direttore, l'ex direttore voleva fare il calciatore proprio come una persona detenuta. Cioè questi fili sotterranei, ma neanche tanto sotterranei, che ci uniscono e che forse ci possono proiettare in una dimensione un po' più umana, ecco, un po' più umana. Bene, qui siamo in un luogo, diciamo, abbastanza prestigioso, pieno di storia, ma voi avete l'intenzione, dicevi prima, di portare questa iniziativa anche nei quartieri, nelle periferie. Sì, l'idea è venuta al direttore del carcere, al dottor Siciliano, che ha detto: ma perché non andiamo con queste immagini e queste parole a confrontarci con le periferie, quelle che noi immaginiamo più problematiche, quelle che comunque vivono uno stigma, che poi magari non è neanche più rispondente a realtà, no? Però lo stigma resta, cioè il quartiere di Quartogiaro ha una storia che lo pone così al centro di vicende, insomma, anche complicate. E quindi noi andremo a Quartogiaro con questa mostra, con queste parole, cercheremo di risvegliare nelle scuole la riflessione sulla colpa, sulla trasgressione, sul castigo, sul senso del castigo, perché il carcere è il castigo degli adulti, però chissà i bambini che cosa pensano del castigo. Ecco, per noi è l'opportunità di imparare. Cioè io, se uno mi dovesse dire che cosa vai a fare a Quartogiaro, io vorrei andare a Quartogiaro a imparare, a capire nelle varie tradizioni anche culturali che si incontrano in un quartiere di periferia, in tutte le città veramente. Che cos'è la colpa? Che cos'è la vergogna? Cioè, la mia, io mi sento curiosa, ecco, curiosa in senso buono, e spero di soddisfare anche la mia curiosità. Bene, questa mostra ho visto che hanno partecipato diverse associazioni, è venuto anche un alto funzionario del Dipartimento della Polizia Penitenziaria. Dell'amministrazione penitenziaria, e quindi insomma è stato avuto anche una certa visibilità e attenzione. Guarda, è stato difficile parlare di questo progetto appena all'indomani dei fatti di Santa Maria Capua Vetere. È stato proprio difficile, perché era come se tutto lo spirito del progetto fosse esploso in una storia terribile. Che comunque è una storia che si sa, che esiste nelle carceri. Quindi quella parte lì è stata un po' faticosa, però devo dire che credo proprio che sia il vice capo dipartimento, che il provveditore, che il rappresentante del Comune di Milano, credo che abbiano capito il senso. E quello che io ho detto allora lo dico anche oggi, cioè questi lavori, in queste attività di ascolto, di attenzione alle persone, sono l'antidoto, secondo me, a questi atti di violenza. Io credo che ci sia, non so, sono come una cura omeopatica, cioè provi a mettere dentro qualcosa di nuovo, e quindi non a caso c'è appunto un assistente di polizia penitenziaria che dice: finalmente dopo 23 anni qualcuno mi chiede come sto in questo lavoro. E io credo che questo sia importante, cioè io ci credo, credo che gli esseri umani abbiano spazio per vivere accanto, incontrando il conflitto, ma senza farsi troppo male. Come in un quartiere. Come in un quartiere. Esattamente, okay. Come la mostra fino a quando sarà aperta qui alla Società Umanitaria? Purtroppo stasera è l'ultima sera, però ci sono così diverse richieste, speriamo di tenerla attiva fino a quando la porteremo a Quartogiaro. Dicono che c'è un tempo per seminare, è uno che hai voglia ad aspettare, un tempo sognato che viene di notte, e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri, un momento che era meglio partire, e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. C'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato, e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente. Tanto che piove e da un anno non torno,